peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti. Sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi è una sorta di confronto, se così si può dire, di batteristi, di percussionisti, batteristi che sempre con più frequenza negli ultimi tempi si rivelano essere anche leader, quindi diventano titolari di progetti e quindi anche a livello compositivo, di immaginazione strutturale, danno un senso, danno un percorso nuovo. Sono linguaggi diversi quelli che ascoltiamo oggi, sono musicisti anche piuttosto diversi come formazione, come intenzione musicale. Il primo che ascoltiamo è Billy Martin. Billy Martin è batterista ormai, come dire, già consolidato, uno dei musicisti tra i 40 e i 50 anni, ben consolidato soprattutto col gruppo di Medeschi, il trio di Medeschi, Martin e Wood. Devo dire che non l'ho mai apprezzato particolarmente come batterista, ma indubbiamente ha un drumming interessante, e anche questo progetto, questo disco che è uscito di recente, che è anche credo il primo che ha registrato come leader, lo vede alla guida di un gruppo di musicisti con una timbrica e con intenzioni piuttosto coerenti tra di loro, che spesso frequentano l'ambiente di Medeschi, del trio di Medeschi. E infatti sono, oltre appunto a Billy Martin, alle percussioni e a vari strumenti, poi a percussione, non solo la batteria, Steve Bernstein, ormai un pilastro di un certo linguaggio, nella tromba e nella slide trumpet, Curtis Folkes al trombone, che lui insieme a Bernstein fa parte di quei musicisti che nella New York già dalla fine degli anni 80 più o meno rappresentano un linguaggio che cerca anche un'affinità con visioni teatrali e espressive non soltanto legate alla musica. Poi Marcus Royas, anche questo musicista di tuba, che questo è un personaggio che frequenta più o meno gli stessi ambienti, e si aggiunge anche la voce bella e in alcuni brani perlomeno, di Shirley Hirsch. Ascoltiamo tre di queste composizioni, che sono tutte firmate da Billy Martin, ma che vedono sicuramente una forte influenza della personalità di Steve Bernstein. We'll be right back. alright. By the time I got out of the train station, I couldn't walk too well. I have my knee replaced a little while ago. That metal knee of mine. Walking, walking, walking, walking, walk. Walking with the 40 other people that were there that day. The 99 plus N. Is that you, Stephen? Did you go to Foley Square? Were you down there? I got so wet. My shoes. They wouldn't even stay on my feet. I needed boats for them. Curtis. What could I do? American Club, and I wouldn't let me do it. Poor white girl like me. Marcus, where do I belong? I wanted your instrument on my lap, Marcus, but they said it was too big for me. Where? Percussionista Billy Martin, con una formazione che ha raccolto intorno a sé, una formazione omogenea, quindi formato da Steve Bernstein alla tromba, alla slide trumpet, Curtis Folkes al trombone e Marcus Royes alla tuba, quindi una formazione, una brass band, una piccola brass band con le percussioni di Billy Martin e la voce poi della Shirley Ayres. È un'atmosfera un po' cialtrona che è quella che ha sempre seguito in modo diciamo scanzonato, soprattutto Steve Bernstein è una sorta di portavoce di questi linguaggi. Penso per esempio anche agli inizi del gruppo dei Jazz Passengers. È un territorio abbastanza limitrofo a quello di un altro batterista, George Schuller, un musicista questo che già dalla fine degli anni Ottanta ha attraversato un certo tipo di mainstream newyorkese, che vede una presenza anche appunto in varie orchestre, una leadership che ha ormai un'esperienza molto lunga con formazioni differenziate tra di loro. Penso alle formazioni orchestrali, ma anche a progetti specifici di recupero, di rilettura di certi stili musicali del passato, della storia del jazz. E, è costante nella sua produzione, nella sua formazione in quartetto e in quintetto, e si avvale sempre di musicisti di primo ordine, non gli stessi, cambiano quasi sempre, ma sono sempre di altissimo livello, quindi sicuramente un musicista molto apprezzato dagli altri. Sono poi musicisti che spesso sono dello stesso ambiente di quello di Billy Martin e di Steve Bernstein. In questo caso si avvale del sax tenore, Schuller si avvale del sax tenore di Peter Afterbaum, che è un sassofonista, arrangiatore, musicista, spesso utilizzato da Steve Bernstein anche per la scrittura degli arrangiamenti per la formazione orchestrale di Bernstein. In questo caso, appunto, oltre al tenore di Peter Afterbaum, anche la chitarra di Brett Shepik, poi Tom Beckham al vibrafono, Dave Ambrosio al contrabbasso e naturalmente George Schuller alla batteria. Quindi una formazione abbastanza classica, con la presenza del vibrafono che dà un taglio timbrico particolare, quindi sia il vibrafono che la chitarra. Anche in questo caso il lavoro è uscito recentemente, come quello di Billy Martin, che è uscito a sua volta nel 2013, questo pochi mesi prima, ma comunque stiamo su cose piuttosto recenti. E ascoltiamo un brano abbastanza rappresentativo un po' dello stile compositivo e lo stile espressivo di questo percussionista, musicista, compositore decisamente interessante. Thank you. Thank you. Questo era il gruppo di George Schuller, il Circle Wide. Il disco era intitolato Listen Both Ways, un disco uscito qualche mese fa. Le etichette poi con le quali incidono questi musicisti sono sempre più come dire, di piccole tirature che raccolgono pochissimi musicisti, oppure anche etichette individuali o autoproduzioni. Quindi indubbiamente anche il reperimento è sempre più complesso. Continuando poi questo percorso su tre batteristi che sono anche leader, l'ultimo, quindi stiamo passando appunto da Billy Martin con questo stile più legato a un'ironia, a una vena espressiva del teatro newyorkese, alla third string, oppure a uno stile più consolidato, più tradizionale di George Schuller. E siamo a John Hollenbach, del quale è uscito in questi negli ultimi tempi un lavoro orchestrale, già il quarto lavoro orchestrale che produce John Hollenbach. Tutti, devo dire, sono ad alti livelli, cominciando dal primo. Anche questo è sicuramente una prova di una grande sapienza di scrittura, di arrangiamenti. È una compagine orchestrale piuttosto ricca, molto numerosa. La maggior parte sono musicisti di sezione, non certo molto conosciuti, se non al pianoforte Gary Versace, che è una sorta di punto di riferimento armonico, e poi spicca soprattutto il sax tenore o soprano di Julien Aguillet, che è un altro nome che sta uscendo negli ultimi tempi come uno dei più interessanti linguaggi di sassofono. Il brano che ascoltiamo adesso, il disco è intitolato Song I Like A Lot. Il brano che ascoltiamo adesso è un recupero, la maggior parte dei brani che compongono quest'ultimo disco sono scritti e arrangiati da John Hollenbach. In questo caso invece quello che ascoltiamo adesso è una vecchia composizione di Ornette Coleman, un disco che uscì, questa composizione uscì nel disco Science Fiction, quindi all'inizio degli anni 70, ed era cantata da Asla Putli. Qui l'ascoltiamo appunto in una versione diversa, orchestrale, con una orchestrazione molto ricca e anche la voce, sicuramente la voce che è quella di Kate McGarry, è decisamente incisiva. Ascoltiamo questo All My Life. Thank you. been my love always, and now I'm yours. Thank you. questo brano di Ornette Coleman, dà l'idea appunto anche della capacità nella scrittura degli arrangiamenti. Questa capacità espressa da John Ollenbach viene poi confermata, direi, in tutto questo lavoro orchestrale. Ascoltiamo un altro brano, che sarà anche l'ultimo per oggi, che dà appunto la consistenza, il tiro, la capacità espressiva, l'utilizzo quindi pieno della formazione orchestrale e la capacità anche di sostenere il sax di Arghie in modo veramente notevole. I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. that Northern Railroad. Perhaps I'll die upon this train. Golden Show. Questo era un gruppo orchestrale, una formazione orchestrale raccolta da John Hollenbach e che costruisce questo progetto orchestrale, come ancora una volta, da prova di una grande capacità musicale, oltretutto un eclettismo notevole, perché Hollenbach si muove su linguaggi molto diversi tra di loro, oltre a essere anche un sideman in diverse formazioni, anche tra le più interessanti, in quartetti, quintetti, segue progetti che sono sia legati alla musica contemporanea o a un jazz d'avanguardia, sia anche questa rilettura del significato orchestrale, della scrittura orchestrale, che percorre anche territori tradizionali dell'orchestra. Si può, come dire, incanalare in questa schiera di nuovi musicisti diciamo delle ultime generazioni, leader di orchestra come la Maria Schneider, oppure i suoi allievi. Questo appunto, allora, il disco, lo ricordo, è intitolato Songs I Like a Lot. Quelli che abbiamo ascoltato sono stati tre lavori usciti tutti di recente con la leadership di batteristi e progetti piuttosto diversi tra di loro, come dicevo all'inizio. Questo era l'ultimo ascolto, quindi a questo punto vi ricordo che potete ascoltarci, ascoltare la trasmissione e trovare anche le indicazioni discografiche nel nostro sito radiocittafugico.it, la sezione musica. Questo è tutto, salve a tutti, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.